Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio, una nuova puntata, quote e finestre, coefficienti di trasformazione, scalini e scaloni, innalzamento dell'età per il sistema pensionistico italiano. Si aprirà al più presto una nuova stagione di riforme, dati gli inviti sempre più espliciti che arrivano da ogni fronte istituzionale, l'ultimo dei quali Banca Italia, per un aumento dell'età pensionabile. Peraltro quello delle pensioni è un cantiere costantemente aperto. Oggi vorremmo rifare un punto della situazione per riepilogare quali sono le regole attuali e i nuovi meccanismi gradualmente introdotti negli ultimi due anni per effetto della legge 247 del 2007, quella che per intenderci ha determinato l'introduzione del cosiddetto sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione. Chi ci aiuta questa mattina? Un esperto in materia previdenziale del Sole 24 Ore, oltre che docente di legislazione sociale presso la LUMSA di Roma, Sergio D'Onofrio. Buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Il numero per gli interventi di voi tutti, per le vostre domande, è sempre l'800240024. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666. La borsa stamattina ha preso una brutta piega la giornata, dopo una partenza che era invece stata l'insegna del più davanti a tutti i listini. Abbiamo un ribasso dell'1,35% a Parigi, dell'1% a Francoforte, Londra meno 0,7%. Milano meno 1,62%. Cosa succede? Che stamattina le vendite stanno interessando soprattutto il settore dell'auto, in primo luogo perché stamattina sono stati comunicati i dati di Peugeot Citroën che non sono per niente piaciuti alla borsa francese. Infatti il titolo è ancora di gran lunga il peggiore sul listino di Parigi, meno 6%. Poi è arrivata anche Fiat e ha un po' esteso, fatto in modo che le perdite nel settore si estendessero ulteriormente. Fiat ha accusato dopo i cali un immediato scivolone di quasi 6 punti, adesso ha dimezzato questo ribasso, meno 3%. In realtà, a giudicare dalle reazioni, i dati sembrano anche migliori delle attese, ma probabilmente il titolo aveva corso molto negli ultimi tempi, adesso sulla notizia dei risultati il titolo ne approfitta, appunto, per gli investitori ne approfittano per qualche presa di beneficio sul titolo. Il peggiore però l'Ottomatica, meno 4,35%, qua andamento sicuramente curioso perché ieri alla notizia dell'arrivo dell'aumento di capitale tutti erano corsi ad acquistare l'Ottomatica, poi si è capito un po' il meccanismo con cui questo aumento di capitale si effettuerà con il lancio di un prestito convertendo e oggi gli investitori abbandonano l'Ottomatica. Bah, questo pure è una cosa piuttosto strana, ma in ogni caso questo è quanto accade oggi. STM, chip, semiconduttori, anche in questo caso conti pubblicati questa mattina prima dell'apertura della borsa e il titolo viene penalizzato dagli investitori, meno 4 punti, Impregilo meno 3,41, CIR meno 3,23, meno 3 punti anche per Tenaris, Unicredit meno 2,84%. Abbiamo pochi segni più, Parmalat più 0,96%, il gruppo è stato premiato da un giudizio positivo di Equitasim, Snam Rete Gas più 0,3, abbiamo finito i titoli con il segno più a Piazza Affari. Terna è sulla parità e poi abbiamo Luxottica meno 0,23%, Eni meno 0,28%. Peraltro si è dato un po' una calmata il petrolio che aveva ritoccato gli $80 al barile, siamo comunque sui 78, tanto è bastato a far rischizzare di nuovo i prezzi della benzina, tema che oggi campeggia su tutti i giornali, ma in ogni caso quantomeno le quotazioni internazionali si sono leggermente raffreddate nelle ultime ore. Questi sono un po' i temi della giornata. Oggi arriveranno tante altre trimestrali dagli Stati Uniti, Boeing, Continental Airlines, eBay, Morgan Stanley nel settore finanziario, per cui avremo un pomeriggio sicuramente vivace. Euro su dollaro a 1,49,35. Questo è il rapporto di cambio in questo momento, ma noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Avete sentito qual è stato il nuovo monito del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nei giorni scorsi. Ha detto: occorre provvedere immediatamente ad una riforma della struttura del welfare italiano, bisogna alzare l'età pensionabile, è indispensabile, ha detto, un aumento significativo. Ma il sistema previdenziale italiano già negli ultimi anni è stato interessato a tutta una serie di interventi. Sentiamo quali sono stati i più importanti. Scalini, scaloni, finestre e quote. Le pensioni sono tra i nodi principali ancora da risolvere, al centro di proposte e interventi da diversi mesi a questa parte. A tornare a parlare dell'età pensionabile e dell'opportunità di innalzarla, si è soffermato nei giorni scorsi anche il governatore di Banca Italia, Mario Draghi. Un ritorno su un tema già affrontato più volte, considerato indispensabile non solo per assicurare prestazioni di importo adeguato a un numero crescente di pensionati, ma soprattutto, secondo il governatore, perché potrà contribuire, se accompagnato da azioni che consentano di rendere più flessibili orari e salari dei lavoratori più anziani, a elevare il tasso di attività e di conseguenza a sostenere la crescita potenziale dell'economia. Ma per il momento si tratta appunto di ipotesi. Ricordiamo che dal 1 luglio 2009 possono andare in pensione coloro che hanno compiuto almeno 59 anni e che abbiano accumulati 36 anni di contributi, ma si potrà andare anche con 35 anni di contributi, ma solo se si sono compiuti almeno i 60 anni d'età. La cosiddetta quota 95 rimarrà in vigore fino al 2010, mentre dal 2011 entrerà in vigore la quota 96. Ciò significa che potranno andare in pensione coloro che hanno compiuto 61 anni di età e hanno 35 anni di contributi. Ma il sistema delle quote non è l'unica novità. Da gennaio 2010, infatti, entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni, cioè i parametri che vengono analizzati per calcolare il valore della pensione. E quindi, insomma, a prescindere dal nuovo invito del governatore della Banca d'Italia, invito che ci arriva da Bruxelles da tanto tempo, come dicevamo, negli ultimi due anni non è che poi siamo stati proprio immobili sul fronte previdenziale pubblico. Sergio D'Onofrio, ancora buongiorno, e io direi che possiamo anche partire da un'analisi delle recenti tendenze che sono state rilevate proprio dall'INPS, dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Nei primi sette mesi di quest'anno, cioè fino a luglio, 68.000 lavoratori avevano scelto di andare in pensione secondo il criterio di anzianità. Un anno prima erano stati 160.000, quindi praticamente una quota dimezzata. Si preferisce il cosiddetto trattamento di vecchiaia, che permette almeno di ottenere un assegno mensile un po' più pesante. Quello che è successo perché da luglio scorso ha preso il via il meccanismo delle quote, ma forse ancora il meccanismo non rientra pienamente in questo conteggio che l'INPS ha fatto fino a luglio, per l'appunto. Sì, esatto, infatti questi effetti noi li avremo dal 1 gennaio prossimo, appunto, quando coloro che hanno praticamente maturato con la quota 95 che veniva ricordata avranno la prima finestra utile. Però ecco, già si sconta nel primo semestre di quest'anno l'effetto della riforma, che comunque ha fatto alzare fino al 30 giugno del 2008 da 57 a 58 anni l'età minima per la pensione, e questo ha inciso soprattutto per le donne, perché ormai praticamente, soprattutto poi con la quota 95, l'età per la pensione di anzianità coincide quasi con quella di vecchiaia. Uno scalino è entrato in vigore invece il 1 gennaio del 2008, quindi un anno e mezzo fa, e appunto ha fatto salire di un anno l'età pensionabile da 57 a 58 anni. Ricordiamo anche in quel periodo tutta la questione che si era posta all'attenzione pubblica della mancata introduzione dello scalone, cioè l'innalzamento secco dell'età pensionabile a 60 anni. Anche questo che effetto ha prodotto, D'Onofrio? Questo ha prodotto, siccome lo scalone praticamente non c'è stato, non no, è stato no, in vigore, lo scalino, diciamo, 57-58, sì. C'è stato, diciamo, quello che poi ha rilevato l'INPS, un effetto, diciamo, di ritardo generalizzato nell'uscita con la pensione di anzianità, e quindi, diciamo, effetti positivi per i bilanci dell'INPS. Allora, tra l'altro, la riforma del sistema previdenziale dovrebbe essere oggi al centro del question time, in programma alle 15 in aula alla Camera. Dovrebbe rispondere proprio Sacconi, anche se sull'aumento dell'età pensionabile lui ha già fatto capire che al momento non vorrebbe effettuare un intervento, pur essendo un problema assolutamente ben presente questo, attenzione politica generale, anche perché Sacconi, lo ricordava il nostro collega Davide Colombo nei giorni scorsi sulle Sole 24 Ore, ha già detto che, visto che l'anno prossimo entrano per esempio in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione, che avranno un rinnovo automatico triennale, non più decennale come è stato fino a questo momento, lui dice al momento questo può essere sufficiente come intervento molto importante nel sistema previdenziale. Detto questo, noi ovviamente, questo è quello che è nel dibattito politico in questo momento, a noi interessa invece capire come possiamo dare dei suggerimenti pratici ai nostri ascoltatori che hanno invece chiuso o meno stanno chiudendo il percorso lavorativo e vorrebbero al più presto appunto andare in pensione, hanno raggiunto tutti i requisiti, insomma come si fa anche ad individuarli, a calcolarli. Io direi di sentire Sergio D'Onofrio, subito una domanda di un ascoltatore, la facciamo riflettere su questa, poi gli rispondiamo subito dopo la nostra prima pausa di oggi. Luigi da Napoli, benvenuto. Grazie. Buongiorno, ci dica tutto. Buongiorno. Io compio, e c'è una voce sottofondo alla stessa. Allora mia. Facciamo Luigi, probabilmente lei che magari... No, guardi, la ripeschiamo allora, facciamo in modo di... riprendiamo la telefonata se possibile, sento Domenico da Lecce. Domenico? Pronto? Domenico, ci siamo. Sì, allora io chiedevo, io ho 53 anni e ho maturato ad oggi 35 anni di contributi. Sì. Intanto quando posso andare in pensione, mi conviene andare diciamo con la quota raggiunta, non so se 95 o 96, o mi conviene andare a 60 anni e quindi aver raggiunto i 40 anni di contribuzione. Perfetto, eccoci ritrovati in diretta. Oggi siamo tornati a riesplorare un po' il panorama previdenziale per tornare a spiegarvi quali sono i requisiti oggi per andare in pensione, a seconda che si scelga il criterio di anzianità o quello di vecchiaia. C'è stata soprattutto questa importante novità dalla scorsa estate, dal 1 luglio, quando è entrato in vigore il cosiddetto sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota che è data dalla somma della nostra età anagrafica e il numero degli anni di versamenti contributivi che abbiamo fatto. Allora stamattina il nostro esperto è Sergio D'Onofrio, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore, oltre che docente di legislazione sociale presso la NUMSA di Roma, e naturalmente sta rispondendo già alle vostre domande. Abbiamo già sentito la prima, che è quella di un ascoltatore di Lecce, che ci raccontava a 53 anni come età anagrafica, 35 anni di contributi. Sergio D'Onofrio, allora, in base ai requisiti attuali, lui intanto non potrebbe far valere il numero dei contributi che ha raggiunto perché non ha l'età anagrafica, come dire, giusta. Esattamente. Però diciamo il suo traguardo non è lontanissimo, nel senso che lui può andare in pensione a qualsiasi età, così come prevede la legge, nel momento in cui raggiunge i 40 anni di contributo. Quindi gli conviene più aspettare il traguardo, diciamo, della pensione di vecchiaia piuttosto che quella di anzianità? Nel suo caso sarebbe sempre una pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Perché per quella di vecchiaia per gli uomini ci vogliono 65 anni. Certo. Quindi, diciamo, per lui il percorso è obbligato, però insomma gli possiamo in un certo senso fare anche gli auguri, perché andare in pensione, se ho capito bene, mi sembra, ecco, una cosa, diciamo, tutto sommato buona, ecco, per lui. Ecco, tra l'altro poi magari il caso di Domenico da Lecce, che sicuramente non è il tema che possiamo affrontare questa mattina, al limite apre un'altra parentesi, che è quella di queste forze, no? Che, come dire, raggiungono la pensione in età tutto sommato giovane, che possono rimettersi magari a disposizione del mondo del lavoro qualora Domenico ne avesse voglia. Ma questo è un tema che magari appassiona, come dire, l'ambito sociale questa mattina, non esattamente Salvadanaio, ma magari troveremo il modo anche di parlarne in un'altra circostanza. Sentiamo, tra l'altro, per le quote, D'Onofrio, noi abbiamo parlato di quella che praticamente è quella che è maturata, no, con la scadenza del 1 luglio 2009, ma quali saranno le prossime che sono state introdotte dalla legge Damiano, questa legge che stiamo citando da questa mattina, la 247 del dicembre del 2007? Esatto, una, la quota 96, la ricordava già la scheda, e riguarda praticamente, parte dal 1 gennaio del 2011 e permette ai lavoratori dipendenti di andare in pensione con 61 anni di età e 35 di contributi, o un anno prima, cioè a 60 anni, però in questo caso devono avere 36 anni di contributi. E poi dopo un biennio, al 1 gennaio 2013, scatta l'ultima quota del percorso delineato dalla riforma Amato, che appunto con la quota 97 chiede 62 anni di età e 35 di contributi, oppure 61 anni di età e 36 di contributi. E per gli autonomi c'è invece la quota scatta, richiede un anno in più, un quindi anno vanno in pensione un anno più tardi. Luigi da Napoli, siamo riusciti a recuperarla, benvenuto. Sì, grazie mille. Eccoci, ci dica tutto. Allora, Allora, io attualmente ho 64 anni, sì. Compio gli anni 65, 23 agosto del 2010. Dunque ho circa 30 anni di contributi tra autonomo e dipendenza e attualmente sono impegnato in lavoro presso altri. Dunque volevo sapere se mi conviene al raggiungimento dei 65 anni se devo continuare a lavorare oppure ho già diritto a una pensione abbastanza valida. Luigi, la ringrazio. Adesso, a prescindere dal fatto che ha fatto un percorso professionale misto come lavoro dipendente, come lavoro autonomo, ma al raggiungimento dei 65 anni di età, Sergio D'Onofrio potrà far valere l'anno prossimo, Luigi, 31 anni di versamenti contributivi. Come dovrà comportarsi? 31 anni bastano per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65esimo anno di età. Nel suo caso, siccome c'è una contribuzione mista di lavoro dipendente e autonomo, la decorrenza, cioè il momento da cui scatta il primo assegno, è quella però dei lavoratori autonomi, perché così stabilisce la legge. Quindi nel suo caso praticamente deve aspettare 3 mesi in più rispetto ai dipendenti, per cui se ha compiuto, facciamo un esempio, gli anni tra gennaio e marzo, andrà in pensione dal 1° ottobre dello stesso anno. Ecco, quindi questo è il quadro per quanto lo riguarda. Per quanto lo riguarda. Il quantum. Allora, con 31 anni di anzianità c'è da presumere che ne abbia almeno 18 al 31 dicembre 95 e quindi dovrebbe essere una pensione tutta retributiva, ma su questo diciamo non giuriamo perché bisognerebbe vedere la posizione assicurativa. Certo, facciamo questa ipotesi. La pensione dovrebbe corrispondere grosso modo alla retribuzione, reddito medio al 60% della retribuzione che ha percepito negli ultimi 10 anni di attività. Peraltro, D'Onofrio, adesso mentre stavamo costruendo questa risposta per Luigi da Napoli, lei ha introdotto anche un altro tema fondamentale che lo stesso è stato oggetto di qualche modifica, di qualche intervento negli ultimi tempi, proprio quella delle finestre di uscita che si sono ridotte per le pensioni di anzianità, sono rimaste invece 4 per chi ha raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia. Esattamente. Che cosa vuol dire tutto questo? Cos'è una finestra d'uscita? Tutto questo vuol dire che la pensione di vecchiaia, siccome si matura più tardi, è privilegiata rispetto a quelle di anzianità. Tra l'altro la legge Damiano stabilisce anche che nel 2011 tutto questo sistema potrebbe essere rivisto. La finestra per la pensione di vecchiaia è importante perché ci dà un segnale, ci dice che si va verso un ritocco dell'età pensionabile che con le finestre per la pensione di vecchiaia già c'è stato e un ritocco ci sarà, ma questo anche in futuro, nel 2015, anche per i pensionati di anzianità, con la cosiddetta età mobile, cioè praticamente un'età di pensione che aumenta in base all'aumento della speranza di vita. Ecco, però su questo, se è consentita una battuta, vorrei dire che le grandi riforme per quanto riguarda il sistema pensionistico sono state fatte, adesso andiamo verso gli aggiustamenti che cercano di valorizzare al massimo la vita lavorativa delle persone, cioè di tenerle di più sul posto di lavoro in modo che possano avere anche un assegno maggiore. Quindi infatti si sta lavorando per incentivi però basati sulla volontà delle persone, il cosiddetto pensionamento flessibile. Il tema è proprio, come dire, l'aspettativa di vita, no? Che si è talmente allungata negli ultimi anni, per fortuna, perché poi chiaramente magari non per tutti è così, per chi ha fatto il lavoro usurante, qui sappiamo bene che c'è la presa di posizione del sindacato, però il tema è che occorre aumentare l'età pensionabile proprio perché si vive molto più a lungo. So che è un ragionamento che può sembrare molto banale, ma D'Onofrio, il tema grande è questo: si vive più a lungo, si vive meglio, per cui c'è. E su questo bisogna fare i conti. E bisogna anche in linea con quello, diciamo, che con l'invito dell'Unione Europea che già qualche anno fa con il Consiglio di Lisbona ci ha invitato ad aumentare l'età dei cosiddetti over 50, perché su questo piano noi siamo rispetto agli altri paesi in una posizione, diciamo, arretrata, nel senso che abbiamo meno persone attive in questa fascia di età, tant'è che adesso è stato presentato un disegno di legge bipartisan, cioè praticamente firmato da esponenti della maggioranza e dell'opposizione, che vorrebbe introdurre degli incentivi per coloro che vogliono lavorare anche dopo il 65esimo anno di età. Ichino Cazzola, se non sbaglio, che abbiamo sentito anche questa mattina nel corso della trasmissione di Oscar Giannino su un altro tema, che è la questione del posto fisso, che è stata riproposta dalle recenti dichiarazioni del ministro Tremonti. Noi però lasciamo da parte, ritorniamo alla pensione. Adesso io sentirei Rocco da Pistoia, perché ci sono tante domande stamattina all'800240024 di ascoltatori che vorrebbero far valere dei lunghi periodi di lavoro che sono stati svolti all'estero, quindi adesso stanno un po' facendo dei conti per capire anche un po' tutti questi periodi che non sono misti dal punto di vista delle modalità con cui è stato effettuato il versamento, cioè non sono misti dal punto di vista del percorso professionale o dipendente o autonomo, sono stati periodi professionali invece svolti in tutt'altra parte del mondo. Rocco da Pistoia, buongiorno. Lei non era molto lontano, in realtà vedo era in Germania. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Allora, io a gennaio compio 57 anni. Ho 22 anni di contributi in Italia, un anno e mezzo di militare e 14 anni in Germania. Vorrei sapere quando posso andare in pensione. Allora, facciamo fare un conto. Sergio D'Onofrio, intanto una curiosità. L'anno del militare va riscattato in maniera autonoma? L'anno per farlo valere i fini previdenziali? È un anno per il quale non bisogna pagare nulla, che viene appunto conteggiato gratuitamente. E si può fare la domanda anche nel momento in cui si presenta la domanda di pensione, quindi è una quasi pura formalità, potremmo dire. In un certo senso sì, però bisogna metterla in evidenza. È riconosciuto gratuitamente. Certo. Allora, come si mettono insieme invece i contributi versati per tanti anni all'estero insieme a quelli versati per un periodo ancora più lungo in Italia ai fini appunto del raggiungimento dell'età pensionabile, D'Onofrio? Dunque, si mettono insieme tutto sommato abbastanza facilmente, perché nel caso dell'ascoltatore che ha lavorato in Germania, quindi diciamo nell'ambito dell'Unione Europea, quindi i regolamenti consentono la cosiddetta totalizzazione, cioè praticamente ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione in Italia si contano anche i periodi di lavoro all'estero. Nel caso specifico, con 22 anni di lavoro in Italia e 14 in Germania, abbiamo 36 anni di contributi e 57 anni di età. Più l'anno di militare, peraltro, aveva l'ascoltatore. Allora ecco, questo agevola, però ecco, non dà al nostro ascoltatore la possibilità dell'uscita immediata, perché adesso appunto con la quota 95 che ricordavamo praticamente ci vogliono almeno 59 anni, quindi diciamo lui purtroppo resta al palo per un po', deve attendere almeno un paio d'anni, perché lui 57 ne compie a gennaio, deve attendere in sostanza il compimento del 60esimo anno di età, perché prima non può andare, perché appunto il discorso delle quote non prescinde da un'età minima che oggi appunto è 59 anni, sempre compiuti 35 anni di contributi, e poi arriva a 61 anni nel 2013. Però entro il 2013 lui avrà fatto i 60 anni e quindi presumibilmente, così diciamo ad occhio, si può dire che può andare in pensione nel 2012. Se lui avesse compiuto 59 anni a gennaio, D'Onofrio, che tipo di finestra si sarebbe aperto, soprattutto nei momenti in cui maturano contestualmente i requisiti anagrafici e contributivi? Come si calcola poi il trimestre a partire dal quale si percepisce il primo assegno, il mese dal quale si percepisce il primo assegno? Allora, se i 59 anni fossero stati compiuti entro il primo semestre di quest'anno, ecco, quindi da gennaio a giugno, lui poteva mettersi in pensione dal 1 gennaio del 2010. Perfetto. Ecco, questo il meccanismo funziona in modo tale che si va in pensione il primo mese del secondo semestre successivo. Successivo al raggiungimento di tutti i requisiti. Certamente. Ecco, per quanto riguarda il lavoro all'estero, un'altra cosa, precisazione, sì. Per il calcolo della pensione, ecco, questo lo ricordiamo anche a beneficio di coloro che si trovano nella stessa situazione. Il calcolo invece viene fatto sdoppiato, nel senso che poi si va a fare un calcolo per cui l'Italia paga la sua quota e la Germania paga la sua però non la paga subito come quella italiana, ma nel momento in cui in quel paese viene raggiunto il limite minimo di età pensionabile. Tra l'altro c'è un altro ascoltatore, che è un ascoltatore nostro di Radio 24 molto fedele, Isa, che ci scrive: mio papà a 59 anni ha versato contributi per 27 anni in Albania più 9 anni in Italia, per cui c'è un periodo appunto di versamenti decisamente sbilanciato, no? Perché quasi tutto è stato effettuato in un altro paese. Intanto qual è la disciplina che ci mette in rapporto all'Albania, Donofrio, se è possibile chiarirlo a questo ascoltatore, e in ogni caso questo ascoltatore, visto che sta terminando il suo percorso professionale nel nostro paese, quindi chiederà, immagino, di andare in pensione in Italia, e in questo caso come funzionerà per questa persona? Dunque, per quanto riguarda l'Albania, si rende necessaria all'esperto una breve verifica, magari. Allora facciamo una cosa, no, facciamo scrivere e lo ricontattiamo, ecco, in privato. Dare una risposta. Io così ne ho approfittato, appunto, solo perché stavamo affrontando i rapporti con gli altri stati. C'era appunto in vista un accordo, ma appunto in questo momento dobbiamo verificare a che punto sia. Ecco, dobbiamo verificare se è stato effettivamente raggiunto. E quindi Isa la ricontattiamo sicuramente in privato. Intanto andiamo a Parma da Luciano, buongiorno. Abbiamo due Luciano, uno da Parma e uno di Savona. Sentiamo il parmense. Pronto? Luciano, eccoci. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno dottor Donofri. Ci dica io tu. Ho 52 anni, 53 a gennaio ne compio. Sì. Ho cominciato a lavorare a 15 anni. Uh-huh. In conseguenza, da quello che sento, gran parte degli operai sono i pochi che a meno di 60 anni hanno i 40 anni di contributi versati. Faccio un lavoro usurante, però non viene riconosciuto perché anche gli sindacati, lo Stato, il governo, anche quello è stato eccetera eccetera eccetera, un tema enorme. Mi sono scomparsi circa prima 170 settimane e poi dopo sono state rintracciate 50, e all'INPS mi è stato consigliato di pagare una quota di 9.600 euro annui per colmare, cosa che per me è impossibile, considerato il lavoro che faccio, che ne lavorerò non 40, ne lavorerò 44, 43. La cosa in qualche maniera mi rattrista, perché avendo fatto una vita sempre lavorativa. Adesso c'è il problema appunto che voi avete toccato e che vorrei toccare anch'io, mi perdoni se magari non è attinente per quanto mi riguarda. Gran parte degli extracomunitari di determinate nazioni, che so io, mettiamo l'Ucraina piuttosto che la Bielorussia, piuttosto che altri paesi, lavorano in Italia per 4 anni e poi dopo se ne tornano al loro paese. Queste persone qua hanno diritto a qualcosa oppure lavorano gratis come sto lavorando io per pagare la pensione a chissà chi? E poi un'ultima cosa. Due anni fa il Ministero della Sanità emanò una circolare dove venne sì valutata l'allungamento della vita, però venne anche valutato che la vita media dell'operaio non raggiunge i 65 anni, almeno di determinati operai. La ringrazio e la sento per altri. Allora Donofrio, Luciano ha, come dire, spalancato la porta a considerazioni che richiederebbero intanto di essere affrontati in altri tre contenitori almeno. E detto questo, adesso non so per quale motivo, data la sua situazione anche professionale particolare, quindi dovrebbe essere magari più interessato alla sua situazione e invece è così un po' più interessato a quello che succede agli extracomunitari che vengono nel nostro paese, che lavorano magari per pochi anni, poi tornano nei paesi di appartenenza, e però poi non credo che abbiano il diritto di chiedere, come dire, il riconoscimento di trattamenti pensionistici, Donofrio. Perché, per la verità, non c'è nessuna limitazione al riconoscimento dei loro diritti. No. Perché anche se hanno versato pochi contributi, quando compiono 65 anni hanno diritto al quantum corrispondente a quello che hanno versato. Ecco, infatti. Quindi ecco, non c'è più quello che era previsto da una norma precedente, che appunto potevano ottenere, nel caso in cui non avessero raggiunto il diritto alla pensione, il rimborso dei versamenti. Ecco, questa cosa non c'è più, però i loro diritti sono salvaguardati da questa norma. D'altronde hanno versato. Riconosce la pensione sempre e comunque a 65 anni. Non ho capito la parte della domanda di Luciano sulla questione del Ministero della Sanità e lavori usuranti? Dunque, per quanto riguarda i lavori usuranti, Praticamente la legge Damiano del 2007, di fine 2007, prevedeva appunto uno sconto di 3 anni sull'età minima per la pensione. Questa norma però, per essere operativa, richiedeva un decreto interministeriale che poi non è stato fatto. Questa, tra l'altro, bisogna dirlo, è una materia molto complicata, molto delicata. Individuare le mansioni effettivamente usuranti che possono dar diritto al beneficio non è cosa facile. Ci sono le evidenze e poi ci sono le sottigliezze, naturalmente. Esatto. Cioè, tornando al nostro ascoltatore, penso che lui non abbia detto che praticamente ha perso dei contributi, e per questi contributi mi pare di capire deve che aveva chiesto un riscatto. Sì. Mm. E questo riscatto però lui dice non me lo posso permettere, pertanto dovrò continuare a lavorare. Se ci ripensa, sappia che però lo può scaricare dalle tasse. No, tra l'altro sì, sul tema del riscatto magari varrà la pena un giorno, Donofrio, di ritornare a Salvadanaio, un tema che abbiamo affrontato anche in altre circostanze, così come quello della totalizzazione, della appunto unione, no, di periodi contributivi che magari sono sparsi un po' su tanti percorsi professionali che si sono fatti negli anni, per cui magari ci ritorniamo. E intanto, in tutto questo, il tempo a nostra disposizione è scaduto, però insomma noi continuiamo a mantenere viva la vostra attenzione sulle novità che nell'ambito previdenziale arrivano, chissà quante ne arriveranno prossimamente, però per tutte le questioni che attengono alle quote, allo scalino, alle pensioni di anzianità e vecchiaia e alle finestre, sicuramente il sito dell'INPS è pieno di informazioni, per cui magari se non siamo riusciti, probabilmente noi di Salvadanaio, a farvi chiarezza, potete trovare tutto l'ABC della Previdenza Pubblica sul sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oltre che tutti gli aggiornamenti sul Sole 24 Ore costantemente. Grazie a Sergio D'Onofrio per essere stato con noi. Noi torniamo. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci, noi torniamo naturalmente domani. Buona giornata.